Ecco, un caro saluto a tutti quanti, buonasera. Iniziamo così la nostra serata. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta organizza appunto due volte alla settimana degli incontri con autori, autrici, appunto per favorire così la conoscenza di nuovi libri, per favorire l'incontro tra il pubblico e chi, quindi chi legge e chi scrive. E questa sera abbiamo il piacere di presentare il libro di Fabrizio Rosei, che è qui con noi, seduto al tavolo insieme a Lucio Giudice Andrea. Questo libro è già stato presentato nel mese di dicembre all'interno di una rassegna organizzata dall'azienda di soggiorno, ma abbiamo pensato che su stimolo anche di Stefan Wallisch, che è qui con noi, di ritornare su questo argomento e soprattutto su questo libro, che è importante in particolar modo per questa settimana, perché il 27 sarà la giornata della memoria e sembra un modo interessante anche questo, no? Ritornare su certi aspetti della storia, una storia però fatta di verbali, di incontri, di una storia un po' diversa da quella a cui siamo abituati dai nostri libri, dall'ufficialità anche di un percorso didattico. Vi ringrazio di essere qui con noi, la biblioteca ha allestito anche una vetrina legata sempre a queste tematiche. Fabrizio Rosei è un giornalista, laureato in scienze politiche, corrispondente per la RAI e per il Corriere della Sera da Mosca. Lucio Giudice Andrea, che ci accompagna in questa serata, è giornalista della Sede RAI di Bolzano e ha scritto anche lui dei libri di storia, soprattutto legati alla nostra realtà del territorio. Ringrazio della loro partecipazione, cedo subito la parola ai nostri ospiti. Grazie. Grazie Valeria. Grazie alla biblioteca, grazie dell'invito, grazie a chi è stato promotore di questa iniziativa e grazie a Fabrizio Gragosei, che è corrispondente da Mosca per il Corriere della Sera e che conosce molto bene, perché la apprezza molto, la nostra provincia, la frequenta da tanti anni e credo che un po' Fabrizio si senta a casa anche quando è qui. Altrimenti lui viene da Roma, pur essendo, se possiamo dire una nota personale, di origine calabrese anche tu come me, quindi avete due rappresentanti, come dire, di quella forte genia che è la genia calabrese. Fabrizio sta a Mosca, come dicevo, e lì ha avuto modo di consultare carte e archivi che forse non sono così conosciuti, perlomeno al largo pubblico, i cui contenuti, i cui documenti non sono così conosciuti al grande pubblico, perlomeno non sono così divulgati, e lì ha ricercato, fra l'altro anche lì, anche in altri archivi, come si capisce dalle note del libro, ma lì ha ricercato e ha trovato una serie, ha ritrovato, è andato a cercare in particolare a una serie di resoconti stenografici delle conversazioni di Hitler. Hitler era non solo un esasperato ed esasperante parlatore, ma era anche uno che faceva effettivamente notare, annotare e stenografare tutto ciò che diceva. Da questa ricerca di Fabrizio è nato questo libro di più di 300 pagine, Così parlò Hitler, ed è un libro costruito più che, come dire, le grandi linee generali della storia, le date, le scadenze, i passaggi della storia si danno, per così dire, per scontati o per acquisiti. Qui si va a vedere invece nel dettaglio, più in particolare, che cosa al momento dell'invasione dell'Unione Sovietica, o prima o anche dopo, che cosa in quei momenti Hitler diceva, e soprattutto diceva anche in occasioni informali, cioè non nei suoi discorsi ufficiali, ma proprio in colloqui o in incontri, se non proprio informali, ma insomma semi ufficiali. Fabrizio ci dirà ora di più. Io voglio iniziare questa conversazione semplicemente chiedendo questo: siamo ovviamente di fronte a un argomento, come dire, montagna, cioè un argomento che non so come dire, per la sua enormità, per la sua grandezza e per la sua enormità, per l'influenza che ha avuto questo personaggio, per le conseguenze di quest'epoca che in parte ancora si vivono. Ed è un personaggio, Hitler, che è stato studiato in lungo e in largo, radiografato, preso sotto la lente d'ingrandimento. Ecco, che cosa c'è di nuovo, Fabrizio, in questo libro? Che cosa c'è che altrove non si trova? Buonasera a tutti. Ma io penso che ci sia, proprio dal leggere queste sue conversazioni private, perché come diceva il giudice Andrea, Hitler, io l'introduzione la inizio dicendo: Hitler non era quello che oggi definiremmo un uomo di poche parole, era uno che parlava molto, era un logorroico e faceva stenografare tutto. Di questa massa immensa di documenti, una parte è andata persa alla fine della guerra, una parte è stata invece salvata, ma comunque di nuovo sono pagine e pagine assolutamente illeggibili, assolutamente spessissimo insignificanti. Ecco, il lavoro che io ho fatto è stato quello di andare a prendere da queste migliaia di pagine le frasi interessanti per un verso o per un altro e le ho inserite nel contesto del racconto. Cioè io racconto la storia del nazismo, della seconda guerra mondiale, utilizzando ove possibile le parole di Hitler stesso. Ecco, questo ci dà un quadro di Hitler molto diverso da quello che abbiamo conosciuto con i discorsi ufficiali, dove lui parlava in un certo modo. Ovviamente quando era a cena con pochi intimi parlava in maniera molto più sciolta e più tranquilla. Allora quello che era il grande piano per lo spazio vitale dei tedeschi, ecco, nelle conversazioni a cena diventa: noi da questa guerra sicuramente saremo quelli che ne usciremo bene in carne, prenderemo tutto quello che ci serve, non dovremo rendere conto a nessuno. Ecco, queste erano le cose che diceva a cena. Siamo alla vigilia della giornata della memoria e tra l'altro devo dire che è anche abbastanza curioso che in Germania abbiamo deciso proprio questi giorni per annunciare la pubblicazione dopo 70 anni del Mein Kampf. Operazione secondo me corretta, perché è bene conoscerlo, ma forse magari potevano annunciarle in un momento un pochino diverso. Dicevo, da tutte queste conversazioni il suo disegno che prevedeva l'eliminazione degli ebrei dall'Europa esce fuori con estrema chiarezza e appunto, ripeto, siamo alla vigilia della giornata della memoria. Beh, chi sostiene, come qualcuno ha fatto, che Hitler non abbia mai parlato dell'uccisione degli ebrei, ma che furono i suoi volenterosi esecutori, come li ha definiti lo storico americano Daniel Goldenhagen, a fare cose che Hitler non aveva neanche voluto, beh, tutto questo è assolutamente falso. È assolutamente falso perché nel libro ci sono delle frasi esplicite di Hitler sullo sterminio degli ebrei: se ne devono andare dall'Europa, se non se ne vanno l'unica soluzione sarà quella di ucciderli tutti. Ci sono varie frasi di questo genere e poi c'era quello che emerge chiaramente da una lettura attenta di tutto quello che è avvenuto in quegli anni, che era quello che i tedeschi chiamano il Führerprinzip, cioè il fatto che in Germania non si muovesse una foglia senza che Hitler non l'autorizzasse personalmente. Ci sono decine di casi di unità militari intrappolate in una sacca sul fronte orientale oppure più tardi in Francia e che chiedono di poter ripiegare, e siccome l'ordine di Hitler era stato ognuno deve continuare a combattere lì dove si trova, nulla poteva essere deciso senza che Hitler venisse consultato direttamente. Ecco, ora pensare che l'operazione di sterminio di 11 milioni di ebrei in Europa fosse stata avviata senza il consenso e l'autorizzazione di Hitler è semplicemente ridicolo. è ridicolo, così come è ridicola la posizione di chi addirittura sostiene che non ci sono prove dell'olocausto, non ci sono testimonianze dirette, non sono vere, sono tutte cose false. Beh, mi sembra, cioè, veramente cose possono essere sostenute unicamente di fronte a chi non ha la minima idea di che cosa sia la storia, di quello che è stato detto, scritto e documentato con filmati, con racconti, con resoconti. Io riporto, tento nel libro di non andare troppo su racconti e descrizioni raccapriccianti, perché ovviamente tutta questa parte del nazismo è più che raccapricciante, però porto semplicemente la testimonianza molto fredda e oggettiva di Rudolf Hoss, che è stato il direttore di Auschwitz, il quale spiega molto tecnicamente di fronte ai giudici di Norimberga, e ci sono le registrazioni di questo, qui ci sono i filmati, che questi prigionieri tedeschi non erano certamente costretti a parlare, e racconta meticolosamente come lui, prima di avviare Auschwitz, andò a studiare a Bergen come funzionavano le camere a gas lì, si convinse che non andavano bene, allora introdusse questa modifica qui, introdusse quest'altra modifica, trovò questo gas, il Ciclon B, eccetera, eccetera. Un ultimo argomento su questo fatto del negazionismo: beh, a Norimberga il processo è durato giorni e giorni, ci sono stati processi ai medici tedeschi, ci sono stati decine di processi. Ecco, tutti gli imputati hanno tentato di giustificarsi in qualche modo, hanno detto ma no, ma io prendevo ordini, no, ma non ero io che facevo quello, io tenevo solamente i numeri, io facevo quest'altro. Tra tutti gli imputati, dai maggiori, Göring, Ribbentrop, Speer, eccetera, ai minori, non ce n'è stato uno che durante il processo abbia sostenuto ma l'olocausto, assolutamente non è vero, non abbiamo mai sterminato gli ebrei, cioè non ce n'è stato uno che l'abbia detto in un'occasione, e questo pure qualche cosa deve far pensare. Per chiudere, scusami, l'argomento Mein Kampf e poi passiamo ad altro. Io credo sia giusto pubblicarlo e renderlo noto, anche perché in realtà è un librone parecchio più spesso del mio, in realtà sono due volumi accorpati, io ne ho un'edizione che anche il collega della RAI col quale parlavo prima, un'edizione fatta da Bonchiani in italiano del 41, che aveva due parti, questa era La mia vita e poi dietro c'era La mia battaglia. Beh, è un librone in buona parte illeggibile, in buona parte delirante, in buona parte assolutamente così, diciamo, da prendere per quello che è, quando Hitler racconta dei suoi successi giovanili, successi invece assolutamente inesistenti, di quando a Vienna stava per diventare un grande artista, eccetera, eccetera. Ovviamente se la prende, cioè mostra chiaramente questa sua ossessione per gli ebrei. C'è un passaggio che ho segnato a pagina 54, quindi all'inizio, quando racconta di quando era giovane e parla di questa sua visione in cui centinaia di migliaia di ragazze fossero sedotte da ripugnanti bastardi ebrei dalle gambe storte. Ecco, era una vera e propria ossessione. L'unica cosa utile veramente del Mein Kampf, e purtroppo credo che gli statisti dell'epoca non lessero questo libro, tranne penso Stalin, perché Stalin sapeva bene che cosa avesse in mente Hitler, è il fatto che nella seconda parte del libro lui delinea molto bene il suo programma di conquista, e dice esplicitamente che l'est europeo deve essere quello che deve essere il terreno dove i tedeschi troveranno il loro spazio vitale. Ecco, Hitler dice sembra che il destino stesso ci voglia indicare queste regioni, parla dell'Ucraina, della Russia, consegnando la Russia al bolscevico, rapì al popolo russo quel ceto di intellettuali che finora ne addusse e garantì l'esistenza statale. Quindi la Russia era un paese che era lì pronto per essere trasformato in una colonia tedesca. Quello che l'India era per l'Inghilterra, la Russia sarebbe dovuta essere per la Germania. Dunque, la Germania si è, diciamo così, premunita, avendo essendo stata, per la verità Hitler era nato in Austria, ma diciamo poi tedesco, grande tedesco, ma avendo questa esperienza alle spalle la Germania si è per così dire premunita, introducendo anche una serie di misure molto, molto problematiche, molto dubbie dal punto di vista così della libertà di espressione. Una di queste è appunto il fatto che il libro Mein Kampf, il libro di Hitler, non è ufficialmente, non lo si poteva vendere, non lo si poteva commercializzare, se non appunto fino a quest'anno, adesso c'è un problema di diritti, credo. Sì, che erano del Land della Baviera e quest'anno sono scaduti. Ecco, era del Land della Baviera perché il primo editore era bavarese, credo. E un'altra, diciamo così, un altro freno che la Germania si è data, un altro campanello d'allarme che la Germania si è dato, appunto quello di prevedere la cosiddetta Auschwitz-Lüge, cioè mentre in tutti i nostri paesi cosiddetti democratici vige il principio della libertà di espressione del pensiero, in Germania affermare o dire non ci furono campi di concentramento, l'olocausto è un'invenzione, è un reato, come dire, specifico, previsto dal codice proprio come tale, quindi si capisce una cosa, perlomeno dal punto di vista del diritto, di principio, anche una cosa molto problematica, perché oggi uno può dire tutto su questo, quel personaggio non viene per questo perseguito. Questo per aggiungere qualche informazione a quelle che ha dato Dragosei. Ci sono poi nel libro, nelle conversazioni di Hitler, poi lo vedremo, ci sono anche dei riferimenti specifici all'Alto Adige o al Sud Tirolo, e in particolare alla popolazione tedesca, ai sudtirolesi di madrelingua tedesca. Prima però volevo chiedere, noi siamo in pratica abituati a vedere questo personaggio, una specie di reincarnazione del diavolo. Adesso non voglio dire, non voglio chiedere se da queste conversazioni esce qualche lato, però come dire, un lato un po' meno diabolico, ci sono degli aspetti di Hitler un po' meno diabolici e tragici di quelli che comunemente si conoscono, ecco, si può dire di lui, insomma, come persona, come... Sì, Franca, ci sono degli aspetti molto diversi che però non so se siano meno diabolici o ancora più diabolici. Lui sappiamo che era gentilissimo e cortesissimo con il personale che lavorava con lui, le sue segretarie, forse alcuni di voi hanno visto quel bellissimo film che è La caduta, sugli ultimi giorni nel bunker, e sono tutte cose assolutamente verissime. In più amava la natura, amava i suoi cani, gli piaceva moltissimo passeggiare nei boschi di Berchtesgaden, dove sull'Obersalzberg, che è una località subito sopra Berchtesgaden, aveva costruito questa sua grande casa, la Berghof, con una finestra a bilico che aveva progettato lui stesso, che era sosteneva la più grande del mondo, dalla quale vedeva una montagna davanti, conosciuta in realtà come testa di Mussolini Kopf, perché secondo lui ricordava la testa di Mussolini, dove era sepolto Federico, dove aleggiava lo spirito, o era sepolto, adesso non ricordo esattamente, lo spirito di Federico il Grande. Ecco, passeggiava nei boschi e i guardiacacce della zona avevano avuto l'ordine di catturare tutti gli scoiattoli e di eliminarli, perché gli scoiattoli davano fastidio agli uccelli del cui canto Hitler era innamorato. Gli uccelli stessi venivano catturati e chiusi in voliere, e poi quando Hitler andava a passeggio i guardiacaccia liberavano questi uccelli in modo che lui potesse immergersi nella natura. Nell'Obersalzberg, dove io sono stato pure a fare delle ricerche, tutto un altopiano dove prima dell'arrivo di Hitler c'erano un sacco di contadini, erano zone molto simili a queste vostre o nostre, se posso dirlo. Ebbene, quando lui decise di mettere lì la sua casa, fece in modo di espropriare tutti i terreni, cacciò tutti i contadini dai masi e trasformò quell'altopiano in un paradiso dei gerarchi nazisti, dove abitavano tutti, da Sfera, Göring, eccetera, e dove nessun altro poteva entrare. Quindi ecco, questo diciamo era il suo lato umano, ma che forse poi tanto umano non mi sembrava. Però c'è quell'episodio che tu hai raccontato in un'altra circostanza dei cuochi. A volte era molto ragionevole. Allora, quando lui parla delle autostrade dicendo bisogna allargare la carreggiata in modo che si possano creare 3 corsie per ordine di marcia e le nuove Volkswagen possano viaggiare a 100 km all'ora, ecco, era più che ragionevole. Quando lui diceva, secondo me, io odio i banchetti, sono il frutto della grande mafia dei cuochi che impongono il loro volere, ma dove è finito il vecchio ottimo piatto unico tedesco? Ecco, lì sono cose abbastanza ragionevoli. Come ragionevole era la sua posizione sull'Alto Adige, che io ne parlo varie volte nel libro sul destino degli altoatesini, quando avesse stabilito e creato questo grande Reich mondiale, ma ancora prima, proprio nel Mein Kampf, scritto nel 23-25, lui dice: se non esito a dichiarare che ora che i dadi sono gettati ritengo impossibile recuperare l'Alto Adige per mezzo di una guerra. Se la nazione tedesca vuole mettere termine alla minaccia della sua estirpazione dall'Europa, non deve ricadere nell'errore dell'anteguerra e nemicarsi Dio e il mondo. Deve riconoscere quale sia il più pericoloso dei suoi avversari e concentrare le sue forze. Se la vittoria si otterrà facendo sacrifici in un altro punto, non per questo le future generazioni ci condanneranno. Credo che se un giorno dovremo versare il sangue tedesco sarebbe delittuoso versarlo per 200.000 tedeschi, quanti erano secondo lui gli abitanti dell'Alto Adige, quando 7 milioni di tedeschi languono sotto il dominio straniero e orde di negri africani versano il sangue del popolo tedesco. Ecco, questo fa il paio con quello che diceva prima sugli ebrei, gambe storte, eccetera, questo mito dei poveri tedeschi accerchiati. È interessante, ne stavo parlando prima con una collega del giornale diocesiano, è interessante vedere come cambia posizione dall'inizio alla fine, man mano che le cose vanno sempre peggio. Lui si convince intanto di essere sempre più l'unico genio che possa salvare la Germania, ma mentre all'inizio confessa appunto candidamente che bisogna prendere tutto quello che serve e portarlo in Germania, si arrabbia moltissimo perché a un certo punto delle antichità trovate in Grecia sono state consegnate alle autorità locali e dice: ma quale autorità locali? Qualsiasi cosa viene trovata va impacchettata e portata immediatamente in Germania, appunto da questa guerra noi ne usciremo sicuramente bene in carne, eccetera eccetera. Alla fine invertisce invece i fattori della vicenda e convince anche gli altri che in realtà è la Germania vittima di un'aggressione su tutti i fronti da parte dei nemici che vogliono annientare il popolo tedesco, e di questo ne parla in continuazione, convincendo gli altri anche di questa sua tesi. Per chiudere, scusa, sull'Alto Adige vorrei dire una cosa che ho trovato invece in un archivio che non è un archivio russo e non sono gli archivi dove c'erano le conversazioni di Hitler, ma che riguarda l'Alto Adige, ed è molto curioso perché l'ho trovato nell'archivio del giornale Stars and Stripes, che è il giornale tuttora delle forze armate americane, e questo è un numero del 1945, esattamente del 18 maggio, venerdì 18 maggio del 45, in cui si parla di una questione nata dopo la fine della guerra, cioè quando la Germania oramai l'8 maggio aveva firmato una resa incondizionata e quindi la guerra era finita. Il giornale delle forze americane esce con in prima pagina questo titolo in basso, che poi chi vuole può vedere, che dice: did we beat Nazis or not? You couldn't tell at Bolzano. Cioè, abbiamo sconfitto i nazisti o no? A Bolzano non si direbbe. Un titolo piuttosto curioso. E nell'articolo si racconta come in realtà dopo dopo la fine della guerra, per diversi giorni, l'ordine pubblico a Bolzano, ma in realtà in tutto l'Alto Adige sul Tirolo, continuò ad essere affidato all'SS, anche sotto l'occupazione americana, tanto che gli americani che arrivavano e dovevano cercare un alloggio lo dovevano andare a chiedere al locale ufficio dell'SS. E uno degli scandali denunciato da questo giornale è il fatto che quattro infermiere americane che erano arrivate a Bolzano furono alloggiate dai nazisti accanto all'ufficio, accanto al laboratorio per la cura delle malattie venere dei soldati, e questo offese mortalmente gli americani, che quindi dopo questo articolo fecero qualcosa e intervennero. Tra l'altro il generale Wolf, che era stato il comandante delle truppe tedesche in Italia, che aveva trattato in anticipo la resa delle truppe tedesche, abitava ancora nella villa ducale di Bolzano con 20 autovetture a sua disposizione, servitù eccetera, e il giorno in cui fu poi prelevato dagli americani per essere portato in un alloggio un po' più adeguato, stava festeggiando il suo compleanno con centinaia di ospiti e ovviamente bottiglie di champagne e SS di guardia fuori della porta. So che in sala c'è un collega che conosce anche lui questo episodio, qualche particolare in più magari poi dopo ce lo racconta. Facciamo un passo indietro, terminiamo il discorso, il discorso per quello che riguarda i progetti di Hitler per i sudtirolesi, perché una volta accordatosi con Mussolini sulle opzioni, cioè sul far dare ai sudtirolesi di madrelingua tedesca e ladina la possibilità di scegliere se rimanere nella loro casa, ma in questo caso rinunciare alla loro cultura, alla loro appartenenza culturale, oppure andarsene, ma in questo caso andarsene in Germania, ma in questo caso rinunciare appunto alla loro terra. Hitler vede per i sudtirolesi una destinazione abbastanza insolita, che è la Crimea. Sì, effettivamente ne parla esplicitamente e sostiene che la Crimea, che lui questo est europeo veniva visto veramente come il paradiso terrestre, come quel paradiso che sarebbe diventato sotto la dominazione tedesca. Allora il progetto era quello di creare queste grandi autostrade che unissero delle città fortificate dove avrebbero abitato i coloni tedeschi, e tutto intorno le campagne con lavoratori schiavi russi e ucraini da lasciare così allo stato brado. In varie occasioni parlano delle vaccinazioni. È una follia vaccinare i russi, non ci penseremo nemmeno. Le scuole, basta insegnargli abbastanza perché capiscano che la capitale del Reich è Berlino e perché sappiano leggere i nostri segnali stradali in modo da non finire sotto i treni e sotto le automobili. Ecco, in questo paradiso nazista le autostrade sarebbero arrivate fino in Crimea, che Hitler voleva ribattezzare Goteland, cioè terra dei Goti, e lì disse: mi è stato suggerito e mi sembra un'ottima idea di mandarci su tirolesi, per loro sarà una terra di latte e miele rispetto agli attuali luoghi di residenza, e poi in realtà basterà imbarcarli su un grande fiume tedesco, il Danubio, e arriveranno in Crimea in un attimo. Quindi credo che anche al di là degli optanti che avevano deciso di andare là, credo che buona parte degli altri sudtirolesi che rimanevano da queste parti nei progetti del Führer avrebbero fatto una fine non piacevolissima. C'erano, posso completare anche qui con un'informazione, mi raccontavano dei colleghi in Rai che avevano degli antenati che avevano optato e che prima di partire per la Germania erano andati a contare gli abeti, le betulle, i larici che avevano sul loro terreno, perché era stato loro fatto credere che avrebbero ricevuto degli appezzamenti esattamente uguali a quelli che lasciavano. Fabrizio, allarghiamo un po' lo sguardo, perché c'è una cosa che io personalmente non ho mai capito e forse nel tuo libro c'è una traccia per aiutarci a capire. Che cos'è che a Hitler piaceva di Mussolini? Si dice che Hitler fosse effettivamente affascinato da Mussolini, ma come si spiega questo? Oltretutto dopo un'esperienza storica come quella della Prima Guerra Mondiale, in cui, diciamo così, l'Italia non, per il suo cambio di alleanze non aveva certo offerto degli ulteriori motivi di simpatia al mondo tedesco. Sì, in un passaggio, in una delle sue conversazioni, Hitler annota che l'Italia, cioè, casualmente sta sempre dalla parte che poi alla fine vince, e questo dopo il 43 avrebbe dovuto fargli capire qualche cosa. Beh, lui aveva intanto un interesse, un'attenzione molto forte per il fascismo, anche se poi tra fascismo e nazismo, al di là delle vicende criminali, criminose da tutte e due le parti, ma certamente quelle naziste sono ben diverse, c'era proprio una profonda differenza anche culturale e politica. Però certamente il tentato colpo di Stato di Hitler del 23, quando in Baviera tenta appunto di prendere il potere con la forza, è sicuramente dettato dall'esperienza italiana. Lui lo dice più volte: se non ci fosse stato il fascismo non ci saremmo stati neanche noi, non saremmo nati, è stato un grande esempio. Prese esempio anche dalle istituzioni fasciste per creare poi molte delle strutture dello Stato nazista, ad esempio dall'Opera Nazionale, l'Opera Nazionale Balilla, il Dopolavoro, il Movimento delle Donne, sono tutte strutture nate in Germania e come dice Hitler, sul modello di quello italiano. Di Mussolini, con Mussolini sappiamo che non c'era una grande amicizia, anzi questione proprio dell'Austria e del Sudtirolo fu per anni un elemento di scontro. E poi sappiamo che l'Italia si scontrò con le potenze occidentali, con la vicenda africana, con le sanzioni, eccetera, e Mussolini decise di avvicinarsi più alla Germania e all'Austria. Quando poi ci fu l'Anschluss, l'annessione dell'Austria, Mussolini rimase neutrale e poi più tardi Hitler raccontò che all'epoca le forze tedesche erano così esigue che se l'Italia, perfino l'Italia, avesse deciso di farsi sentire o addirittura di usare le sue forze militari, la cosa sarebbe andata a finire certamente male per i tedeschi. Di questa non avversione di Mussolini, Hitler fu molto contento e c'è una lunga conversazione telefonica col principe di Assia, che era a Roma, che era il marito di Mafalda di Savoia, che poi morirà più avanti a Buchenwald. Ecco, lui gli ripete 20 volte: vada dal duce e lo ringrazi, dica che mai e poi mai dimenticherò quello che lui ha fatto per me, e così via per vari minuti. Lui stimava molto Mussolini, lo riteneva un degno erede dei Cesari, stimava i lavoratori italiani, diceva che in Africa si sono comportati e si comportavano come api operose, aveva anche una idea abbastanza, passabile dei soldati italiani, disprezzava profondamente i generali e la classe e i nobili e la corte e tutti i principi. Sull'Italia non ha parole molto, molto lusinghiere, nonostante quello che ho detto, e lui racconta ad esempio la vicenda della non belligeranza italiana quando ci fu l'attacco alla Francia. Poi dopo sappiamo che l'Italia alla fine per poter sedere a quello che credeva sarebbe stato il prossimo tavolo di pace aveva bisogno di qualche decina di morti e quindi Mussolini entrò in guerra. Ma Hitler racconta questo nel 42, dice: gli italiani sono spiccatamente propensi ad attribuirsi tutti i meriti immaginabili ma senza compiere d'altra parte le imprese corrispondenti. Ciò parla della Prima Guerra Mondiale. mondiale, la stessa solfa per quanto concerne la campagna del 1940 sul fronte occidentale. La loro non belligeranza avrebbe mobilizzato almeno 60 divisioni francesi. Sono rimasti molto male nell'apprendere recentemente dalla pubblicazione degli archivi dello Stato Maggiore francese che non già 60 ma solamente 7 divisioni montavano la guardia alla frontiera italiana, in quanto i francesi avevano perfino potuto ritirarne 3 nel corso della campagna. Ma queste bazzecole gli italiani fanno presto a dimenticarle, potrebbero accumulare batoste per 3 anni consecutivi, ma il giorno che riportassero una vittoria dimenticherebbero tutte le mortificazioni e la penisola intera esploderebbe in canti di trionfo. In un altro passaggio dice che la Germania non dovrà mai fare la pace con la Francia perché altrimenti basterebbe la sola polizia di Parigi per sgominare gli italiani, quindi non era giudizi, peraltro, come sappiamo, su quello che accadde in Russia, anche in realtà molto, molto sbagliati, perché poi i soldati italiani, ce n'è una traccia in queste conversazioni, le divisioni italiane che vennero travolte dai carri armati sovietici quando ci fu lo sfondamento del fronte con la sacca di Stalingrado eccetera, beh, erano in buona parte, diciamo, la punta di diamante dell'Armir, dell'armata italiana e Russia, erano le divisioni alpine, la Tridentina, la Cuneese eccetera, che erano divisioni armate in maniera leggera con degli obici da montagna che venivano portati dai muli, perché dovevano essere originariamente destinate a combattere sul Caucaso, quindi sulle montagne dove quel tipo di armamento sarebbe stato utile. Beh, furono schierati nelle grandi pianure russe di fronte ai T-32 sovietici, quindi ovviamente non potettero fare altro che tentare di difendersi e morire nella steppa. Dunque, pochi mesi dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che come sappiamo iniziò il 1 settembre 1939 con l'invasione della Polonia, la Germania e l'Unione Sovietica stupirono il mondo perché conclusero un patto, il patto che porta il nome dei due ministri degli esteri, Ribbentrop per la Germania e Molotov per l'Unione Sovietica, che sconvolse in un certo senso l'opinione pubblica europea e mondiale, perché compresa quella della Germania e compresa quella dell'Unione Sovietica, immagino, perché ovviamente fino ad allora l'Unione Sovietica e il comunismo, l'ideologia comunista era per Hitler quanto di peggio si potesse immaginare e viceversa. Ecco, c'è qualche conversazione di Hitler, c'è qualche traccia di come lui poi spiegava questo patto, non ufficialmente, ma ai suoi, ecco. Innanzitutto ci sono delle parti che ci spiegano come Hitler non si preoccupasse minimamente delle ripercussioni di questo voltafaccia all'interno. Cioè, lui spiega molto bene, e in realtà aveva iniziato ad usarlo già negli anni precedenti, come quanto sia importante il controllo dei mezzi di comunicazione, il controllo dei giornali e della radio e dei cinegiornali. Lui dice proprio: io con i giornali che ho posso permettermi di fare giravolte a 360 gradi e il giorno dopo i tedeschi approveranno tutto. Ed effettivamente così accadde, perché da un giorno all'altro l'Unione Sovietica, il grande nemico, e ricordiamoci che il nazismo nasce e si rafforza e arriva al potere proprio un po' sull'ondata, cioè non è vero quello che fu sostenuto a un certo punto, che il nazismo è solo una risposta alla rivoluzione bolscevica, ma certamente la rivoluzione bolscevica e il terrore che girava in tutto il mondo, in tutta Europa e negli Stati Uniti per l'avvento possibile della rivoluzione mondiale professata da Lenin e dai bolscevichi, certamente contribuì a portare il nazismo vicino al potere. brevissima parentesi, i nazisti non hanno mai avuto la maggioranza dei voti tedeschi, anche alle elezioni che si tennero dopo il 33, cioè dopo la presa del potere di Hitler, e quindi quando i nazisti avevano in mano tutte le leve del potere riuscirono a ottenere solamente il 45% dei voti, o comunque adesso non ricordo la percentuale esatta, ma non il 50%. Il bolscevismo era il grande nemico, però era anche il paese nel quale le truppe tedesche si andavano ad addestrare negli anni 30. Quando Hitler iniziò a riarmare segretamente la Germania, segretamente si fa per dire perché lo sapevano tutti, i campi di addestramento erano in Unione Sovietica, dove già c'erano dei rapporti abbastanza buoni. Fino all'ultimo, fino a quel famoso patto, anche gli alleati corteggiavano l'Unione Sovietica per tentare di portarli nel loro campo. Ci fu la determinante opposizione dei polacchi, i quali dissero che poi mai, anche in caso di uno scontro diretto con la Germania, avrebbero permesso alle truppe sovietiche di attraversare la Polonia per andare a fronteggiare un'eventuale aggressione tedesca, e quindi questo e tanti altri elementi portarono Stalin a convincersi che gli occidentali facevano finta di corteggiarlo, portarono Hitler a convincersi che avrebbe potuto ottenere qualcosa da Stalin. Lui, ripeto, dall'inizio lo dice, lo ripete, la Russia era la preda designata, però certamente voleva guadagnare tempo, e la cosa che emerge chiaramente dalle conversazioni, ma soprattutto anche dagli incontri militari che aveva, dalle conferenze militari che aveva due volte al giorno, era l'ossessione dei suoi generali, che aveva anche Hitler, della guerra su due fronti, cioè voleva in tutti i modi non ritrovarsi come nella prima guerra mondiale a dover combattere su due fronti, per cui fece l'accordo con l'Unione Sovietica, e lo dice che era un accordo puramente tattico per potersi così occupare della Francia, del fronte occidentale. Poi una volta nel 1941, quando si era convinto, e sbagliando clamorosamente, che oramai le cose sul fronte occidentale erano tranquille e che l'America non sarebbe intervenuta, o che comunque l'America non avrebbe avuto quel peso che poi ha avuto, attaccò l'Unione Sovietica cogliendo comunque sì alla sprovvista Stalin, il quale peraltro, e questo invece è uno dei documenti che ho trovato, che è uscito dagli archivi sovietici dopo il crollo dell'URSS nel 91, stava approntando un piano di invasione preventiva della Germania, cioè tutti e due firmarono quel patto pensando che fosse solo una cosa momentanea per prepararsi poi allo scontro che poi alla fine ci fu. Se qualcuno vuole fare domande, prego, alzi la mano e la faccia. Prego, signora. Queste conversazioni che lei ha studiato e che ha raccolto, emerge una visione particolare della donna? Hitler parlava delle donne? Sì, me l'ero segnato perché ne parlava, e ne parlava ovviamente in maniera così un po' particolare. Diceva: detesto le donne che si impicciano di politica. Non c'è calamità peggiore che vederle alle prese con le idee. Ecco, aveva l'idea delle donne, e difatti per anni, fino alla fine, lui impedì che le donne andassero a lavorare nelle fabbriche, mentre in Gran Bretagna sappiamo benissimo che quello fu uno degli elementi che poi nel dopoguerra diedero vita ai movimenti per l'emancipazione femminile, il fatto che le donne nel momento del bisogno andarono a lavorare fuori casa. Ecco, in Germania questo non avvenne e le donne venivano sostituite dai lavoratori schiavi. Lui in varie occasioni parla anche delle giovani donne, dice: non c'è niente di più bello che avere una giovane donna da plasmare completamente. Si riferisce ovviamente in maniera implicita alle due sue donne, una la Eva Braun, che poi dopo sposerà in punto di morte, l'altra è la nipote, la Jelly Ruben, se non sbaglio, che era la figlia della sorella di Hitler, che venne a vivere con lui assieme alla madre. La madre, quindi la sorella di Hitler, gli teneva in ordine la casa di montagna sull'Obersalzberg, e questa giovane ragazza era sempre in casa. Ci fu sicuramente qualcosa tra i due, e la ragazza a un certo punto si suicidò, morì suicida. Ecco, le sue affermazioni sulle donne sono solo di questo genere, sono sempre così, ne parla così in maniera come se fossero dei cagnolini praticamente. Se parla meglio dei cagnolini, perché per i cani si sa che aveva una vera passione. Assolutamente, assolutamente. Se no giù non si sente. Sì, io non so questo, nel senso che il fatto che poi alla fine lui sposò Eva, nel senso che insomma nelle sue giustificazioni, no, diceva che non poteva dedicare la sua vita insomma, a una donna perché era un debito al popolo tedesco, però poi alla fine sposò Eva. E poi c'è anche tutta una serie di libri, no, che rivalutano il ruolo di Eva, non come dire la sua schiava, ma insomma una donna che comunque scelse di stare al suo fianco e di morire con lui. Per cui insomma, volevo chiedere se c'è proprio qualcosa di specifico, di qualche frammento specifico di conversazione proprio tra lui e Eva direttamente, per capire meglio questo rapporto che è ancora poco indagato. E anche un'altra domanda, se posso fare, è il discorso proprio del fatto che il nazismo e l'olocausto comunque è stato studiato poco con un'ottica di genere, no? Cioè è stato studiato poco per quanto riguarda le donne, come hanno vissuto sia le donne tedesche, le donne naziste, sia le donne ebree. Ecco, questo discorso un po' di rivalutare tutto il femminile, magari in un'ottica di meno di pregiudizio, anche in qualche modo. Sì, io inizio dall'ultimo punto. Credo che un po' tutta la storia sia stata studiata poco dal lato femminile, è tutta una storia di eroi, di comandanti, di guide, di capi, quindi sicuramente questo è vero. E il discorso che lei faceva, sì, ci sono vari punti delle sue conversazioni in cui dice proprio io non posso assolutamente sposarmi, perché sposarsi vuol dire doversi dedicare comunque una parte del proprio tempo a una persona, io invece mi devo occupare della Germania. Sposò Eva in punto di morte perché oramai non doveva più occuparsi della Germania. Lei, il ruolo di Eva, io credo francamente che ci sia stato, ma non sia stato così determinante, proprio perché veniva tenuta molto in disparte. Ricordiamoci che nelle occasioni ufficiali non è esistita fino al matrimonio, che peraltro è stato conosciuto solamente dopo. Sì, lei certo decise di rimanere con Hitler fino alla fine, come la Claretta Petacci, l'amante di Mussolini, decise di rimanere con lui fino alla fine. Sono gesti certamente difficili da capire per noi, ma evidentemente per loro furono cose che ritenevano fondamentali. E d'altra parte non so neanche poi che fine avrebbero fatto, perché ecco, così come Hitler si preoccupò non solo che il suo corpo e quello di Eva fossero bruciati, volle che anche il corpo del cane fosse bruciato perché non finisse in mano ai sovietici. Ricordiamoci che c'era questo panico, in buona parte giustificato, per l'arrivo dei russi. La frase tipica era Ivan ist kommt, arriva Ivan, e questo scatenava il terrore. Per cui credo che comunque forse per molti, e non solo per Eva, quella fu apparve in quel momento la decisione più saggia, cioè quella di fare la stessa fine del Führer. È interessante notare che dopo il suicidio di Hitler, questo non è ovviamente nelle sue conversazioni, ma venne comunicato ai tedeschi che ancora resistevano, soprattutto a Berlino, che il Führer era morto alla testa delle sue truppe. E invece il generale, di cui adesso non ricordo il nome, che poi trattò la resa incondizionata con gli alleati, per convincere le ultime sacche di resistenza a cedere, rivelò la verità e disse in un comunicato: il Führer si è suicidato abbandonandoci qui a Berlino. E quindi fino alla fine continuò questa idea del grande capo che moriva alla testa del suo popolo. C'è qualche altra domanda? Sì, dunque è un'impressione che mi sono fatto seguendo un po' il percorso vitale sia di Hitler che di Mussolini. È questa: tutti e due, in un certo senso, erano dei provinciali, cioè nel senso che Hitler, per quel che si sa, non andò mai al di fuori dei confini della Grande Germania. Sì, ok, andò a Parigi a fare una visitina quando la conquistò, ma cioè non avevano minimamente un'idea cosa ci fosse al di là. Mussolini andò in Svizzera una volta da giovane, poi venne qui, ma vabbè, era l'impero austro-ungarico, però durò pochi mesi. Nessuno dei due aveva visto Londra, nessuno dei due era mai stato in America. Questa forma di chiusura, di mancata conoscenza diretta, può aver giocato un ruolo, adesso lo domando per Hitler, secondo me per Mussolini l'ha giocato, per esempio in quello che dicevi, la totale sottovalutazione del ruolo dell'America quando si trattò di mettersi a fare guerra. Non sapevano letteralmente con chi avevano a che fare. Io faccio il confronto con Churchill, che ancora prima di assumere gli incarichi che assunse, aveva girato tutto il mondo, ma non da turista, da persona che girava, vedeva, capiva, si faceva un'idea. Mussolini e Hitler, niente. Sì, questo è verissimo. La mancata conoscenza da parte di Hitler di che cosa fossero gli Stati Uniti e anche di che cosa fosse l'Unione Sovietica emerge molto chiaramente dalle conversazioni, soprattutto dai discorsi con i militari, quando ad esempio, parlando dell'Unione Sovietica, lui dice: sapevamo, anzi non lui, veramente uno dei suoi generali gli dice, Führer, sapevamo che l'Unione Sovietica aveva schierato sul nostro fronte, adesso non dico un numero, ma mi sembra tipo 250 divisioni e all'improvviso ne sono uscite fuori altre 50. Per gli Stati Uniti lui era convinto che un bombardamento su New York avrebbe probabilmente messo le cose a posto definitivamente. Chiedeva ai suoi di fabbricare uno Junker in grado di volare fino a New York per bombardare i grattacieli, e lì diceva: con quelle strade, quei tipi, quei palazzi non possono costruire rifugi sotterranei, e poi con le macerie non riusciranno mai a sgombrarle. Aveva studiato un po' il sistema produttivo americano, tanto che in varie occasioni dice che gli americani riescono a fare con molta mano d'opera quello che facciamo noi e in minor tempo, però sicuramente sottovalutava le potenzialità economiche degli Stati Uniti e ripeto anche della Russia. Avevano un'idea delle strade russe basate sulle cartine di cui disponevano, e in una delle conversazioni tra lui e il generale si dice: ma vedevamo delle strade segnate in rosso e invece scopriamo che sono solo delle mulattiere fangose. Ecco, questo c'era assolutamente. C'era anche, come dicevi giustamente, anche Mussolini. I due non avevano girato il mondo, non avevano visto quasi nulla, e purtroppo è una cosa che poi si è ripetuta più avanti, per esempio, per quasi tutti i leader sovietici e anche russi. Yeltsin è uno che era stato qualche volta in America, ma ben poco. Vladimir Putin è una persona che prima di arrivare alla presidenza della Russia aveva conosciuto solo la Germania dell'Est praticamente, quindi il suo mondo era l'Unione Sovietica e la Germania dell'Est, e queste effettivamente sono tutte cose che poi hanno un'influenza molto importante. Scusi, tornando al discorso delle donne, no? Che mi interessa particolarmente, e invito anche tutte le persone qui presenti e anche voi studiosi del nazismo a studiare di più le donne, che giustamente, come diceva lei, sono studiate pochissimo nella storia. C'è anche il discorso di Leni Riefenstahl, perché se è vero che c'era una visione delle donne così molto, molto chiusa, bisogna anche dire che Hitler aveva dato carta libera a Leni Riefenstahl, che è poi una delle più grandi registe della storia, sia facendogli fare le Olimpiadi del 33 e anche poi facendogli fare il famosissimo documentario sul congresso di Norimberga, che tra l'altro aveva vinto premi anche a Venezia, a Parigi, eccetera. Per cui questa idea proprio, insomma, idea straordinaria, in fin dei conti, che sotto il nazismo, tutto sommato, questa donna avesse avuto così grande, intanto così grandi mezzi, perché era, come dire, finanziata, proprio stata finanziata tantissimo dal nazismo, e comunque aveva mantenuto comunque una sua individualità, una sua specificità, e questo gli era stato permesso. E per cui anche rivedere le testimonianze, insomma, leggere anche le testimonianze, per esempio, di Leni Riefenstahl, no? Che ha scritto poi i suoi rapporti sul nazismo nel libro Stretta nei tempi, e studiare anche, indagare, come dire, la visione femminile del nazismo, insomma, sarebbe una cosa molto interessante, che mi piacerebbe invitare tutti a fare. Sì, certamente c'era anche la famosa Beatrice Anni, adesso non ricordo il nome, quella che volò a trovare Hitler proprio negli ultimi giorni prima della caduta del bunker. Ma erano, vogliamo dire, eccezioni? Forse sì, però certamente il documentario, come si chiama, Olimpia, se non sbaglio, si chiamava quello sulle Olimpiadi, il trionfo della volontà, eccetera, ebbero un'importanza fondamentale. Hitler sappiamo che diede molta importanza alle Olimpiadi del 36, e poi in alcune conversazioni racconta che c'erano in programma anche delle altre Olimpiadi invernali nel 41, perché nel 36 si tennero pure a Berchtesgaden le invernali, e poi nel 41 le Olimpiadi si sarebbero dovute tenere a Tokyo, quelle estive, e quelle invernali di nuovo in Germania. E Hitler anche per quello aveva grandi piani, e che probabilmente avrebbero coinvolto nuovamente anche il cinema, che lui riteneva essere uno strumento di propaganda fondamentale. Diceva già nei primi anni, nel 41, nel 42, che le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state le ultime che si sarebbero svolte fuori dalla Germania, perché poi di lì in avanti le Olimpiadi si sarebbero sempre tenute a Berlino, dove Speer gli doveva costruire uno stadio con 400.000 posti, la capitale del Reich, che lui voleva ribattezzare Germania, sarebbe stata una cosa magnifica, che avrebbe potuto, e solo Roma, lui diceva, poteva rivaleggiare con la Berlino, con la Berlino, con la Berlino del grande Reich. Se posso, inserisco io una domanda, perché sono stati fatti i nomi di Leni Riefenstahl e di Speer, dell'architetto Speer, poi ministro degli armamenti. Nel film che tu hai citato, La caduta, Der Untergang, c'è una battuta, uno scambio di battute tra Hitler e Speer, e Hitler dice a Speer, tu sei l'unico che io in realtà stimo tra tutti questi personaggi. C'era qualcuno a parte Speer che Hitler stimasse, o in fondo era anche da questo punto di vista un uomo solo, nel senso che era sì il capo, era sì il dittatore, era sì la persona alla quale non si poteva opporsi, alla quale non si poteva dire di no, però in realtà lui non stimava molti dei suoi uomini. No, era sicuramente molto solo da questo punto di vista. gli unici due che stimava credo fossero proprio Speer e Goebbels, al quale si riferiva sempre come Dr. Goebbels, cioè gli riconosceva questo titolo e lo riteneva un intellettuale. Speer gli piaceva molto soprattutto perché lui riteneva di essere un genio dell'architettura e dell'arte, e ci sono tutti i suoi racconti della sua gioventù a Vienna che sono da questo punto di vista, stavo per dire esileranti, ma forse diciamo illuminanti. Lui si lamentava che non lo avevano preso all'Accademia di Belle Arti per il semplice fatto che non aveva il necessario titolo di studio. Quindi però nonostante questo iniziava a realizzare progetti architettonici. Quando c'era un concorso, e ce n'era uno sempre per la realizzazione, se non sbaglio, dell'Opera di Vienna, lui elaborò un suo progetto, e poi dopo raccontava appunto nelle scene che quando vinse qual era il progetto che aveva vinto, quando vide qual era il progetto che aveva vinto, si rese conto che il suo era certamente molto migliore. Aveva deciso di terminare un'opera su Sigfrido che Wagner non era riuscito a realizzare, aveva idee grandiose e pensava di essere un genio in tutti i campi, ma in quel caso soprattutto nell'arte e nell'architettura. E quindi Speer, l'architetto Speer, era sicuramente l'uomo che lo faceva sognare quando gli presentava questi plastici della futura Berlino e quando assieme disegnavano queste grandi strutture che sarebbero nate. Prego. Grazie. A me interesserebbe, mi ricollego alla domanda che ha fatto giudice Andrea riguardo alla scarsa, diciamo, fiducia forse nei suoi collaboratori, in genere il fatto di ritenersi una persona superiore alle altre e quindi anche la difficoltà di individuare un erede. Se nelle sue ricerche è mai emerso magari farsi delle considerazioni riguardo al futuro del Partito Nazionalsocialista, al futuro della Germania, nell'ipotetica anche magari vittoria di una guerra, eccetera, dopo la sua morte, cioè quello che come lasciare, diciamo, fare un passaggio a un nuovo leader o quindi designare qualcuno, non so. Chiedo appunto a lei se è un discorso che viene toccato in questi colloqui privati o è magari una cosa tabù che probabilmente per lui, che si vede immortale, anche se sappiamo che aveva anche dei problemi di salute, poi non era neanche, non so, diciamo che sicuramente parlando in termini, diciamo, concreti di realismo, penso che comunque un leader di questo tipo aveva sicuramente fatto delle ipotesi su quello che sarebbe potuto avvenire dopo. Sì, ne parlava spesso in realtà. Intanto diceva che appena fosse finita la guerra lui avrebbe passato 3 mesi senza fare nulla, e in altre occasioni diceva il mio sogno sarebbe quello di vagabondare per l'Italia come un perfetto sconosciuto. Gli piaceva molto il cibo italiano, le opere d'arte, eccetera. E poi sosteneva che in futuro la Germania avrebbe dovuto avere un leader, un Führer, che sarebbe stato scelto o eletto, ma eletto non dal popolo, bensì faceva riferimento esplicito all'elezione del Papa. Cioè, l'elezione del nuovo Führer deve avvenire in una specie di conclave chiuso dove le persone designate, cioè le persone giuste, adatte a scegliere il nuovo leader, lo scelgano senza che da fuori si sappia chi sia. Lui certamente contava di rimanere al potere per sempre, fino alla sua morte. Era malato, ma era soprattutto un ipocondriaco. C'era il suo medico personale, Leo Morel, che lo riempiva di medicinali, fino a 30 medicinali diversi in un solo giorno. Gli dava, io poi ho approfondito un po' la cosa, c'è stato intanto un libro proprio scritto sulle medicine, sulla parte medica, e ho approfondito anche con degli specialisti. Gli dava, non so, degli stimolanti e poi gli dava dei calmanti. Lui era terrorizzato dai voli aerei, allora prima di partire gli dava dei calmanti, poi dopo altre iniezioni per ritirarlo su, insomma una quantità di medicinali notevolissima. Poi sappiamo anche che aveva questa mania del cibo vegetariano, per cui dovunque andava c'erano degli orti speciali dove venivano coltivati i legumi e le verdure per il Führer, che dovevano essere particolarissime. Prego. Cosa mi sa dire qualcosa di più dei rapporti con la Chiesa, cattolica e con il Vaticano? Beh, con la Chiesa ebbe rapporti, ci fu anche un concordato tra la Chiesa e la Germania, ebbe rapporti ovviamente, rapporti formalmente accettabili, ma sicuramente lui non sopportava la Chiesa, non sopportava la religione. Era tutto poi in parte legato al suo odio per gli ebrei, per cui lui sosteneva che il cristianesimo non fu altro che una manovra degli ebrei per indebolire l'impero romano, tanto per dirne una. Certamente in varie occasioni disse che appena possibile ci libereremo anche delle chiese, parlava sia della protestante che della cattolica. Delle frasi illuminanti vengono dette da Hitler nel 1943, quando c'è la caduta di Mussolini, nel luglio del 1943, e alcuni gerarchi scappano, alcuni si rifugiano in Vaticano. E allora Hitler, infuriato, dice ai suoi generali di preparare un piano per invadere immediatamente Roma, per invadere l'Italia e per entrare in Vaticano. Dice: entriamo là dentro, prendiamo quel branco di porci e li portiamo via, poi in un secondo tempo mi scuserò. Ecco, questo fa anche capire quanto delicata fosse la posizione del Vaticano, della Svizzera e della Svezia, i tre paesi neutrali d'Europa. Sulla Svizzera, in un altro punto, dice: è un cancro al centro dell'Europa che bisognerà estirpare. Voleva estirpare questo cancro e usare gli svizzeri, come dicevo prima, come per gestire gli alberghi del Reich. Il Vaticano sicuramente lo sopportava a malapena, quindi la cautela che molti hanno rimproverato alla Chiesa nel muoversi forse troppo sotto traccia nei confronti dello sterminio degli ebrei, in parte potrebbe essere anche stato giustificato proprio da quello che si sapeva sarebbe stato l'atteggiamento di Hitler nei confronti del Vaticano. Cioè, sicuramente se le cose fossero andate avanti come lui sperava, non avrebbe certamente rispettato queste neutralità. Ci avviamo verso la chiusura, è da un'ora, un po' più di un'ora che stiamo parlando, e volevo chiedere, Fabrizio, tu che hai vissuto tanti anni a Mosca, adesso non di Hitler, perché questa domanda te l'ho già fatto, che cosa c'è di, eventualmente di nuovo, però diciamo dalla, chiamiamola così, l'apertura degli archivi sovietici dopo la caduta dell'Unione Sovietica, su queste vicende che sono in fondo la nostra storia contemporanea, a tuo parere c'è ancora da aspettarsi qualcosa di grosso? Ci sono ancora delle novità? Ci sono ancora delle informazioni di cui non disponiamo che potranno uscire da questi archivi? Oppure in questo periodo si può tutto sommato considerare documentato e studiato a sufficienza? Io credo che allora grandi sconvolgimenti sicuramente non potranno mai uscire fuori, perché la storia oramai è abbastanza consolidata. E gli archivi sovietici, gli archivi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica sono stati aperti in buona parte per diverso tempo, per alcuni 2-3 anni. E gli archivi del KGB sono stati aperti per pochi giorni o forse un paio di mesi. E una delle persone che è riuscita ad accedere è stato un ex dissidente sovietico, adesso non ricordo se Sharansky o un altro, che entrò in questi archivi munito di un, questo parliamo del 1992 se non sbaglio, sì, 92, perché l'URSS si sciolse a fine del 91, entrò con uno scanner portatile, che era un apparecchio che gli uomini del KGB neanche conoscevano, e riuscì furiosamente a scannerizzare e copiare alcuni documenti che poi uscirono. Si tratta anche di materiale importante. Poi gli archivi sono stati richiusi rapidamente, come peraltro era anche logico che fosse, perché in nessun paese del mondo gli archivi dei servizi segreti sono stati mai aperti, tranne la Germania. Questo, scusate, apro una brevissima parentesi, l'altra cosa fondamentale della Germania e del nazismo è che nel 1945, quando la Germania si arrende, crolla tutto, cioè non c'è più nulla in piedi, per cui per la prima volta chi entra in Germania ha potuto mettere le mani su tutti i documenti esistenti, non era stato praticamente cancellato e rimosso nulla, tutti i documenti dei servizi segreti, i documenti dei comuni, delle aziende, per cui su tutto quello abbiamo una massa di materiale enorme. Ecco, in Russia gli archivi furono richiusi rapidamente. Io ebbi intervistato un paio di volte Alexander Yakovlev, che era l'ideologo della perestroica ai tempi di Gorbaciov, cioè quello che era un uomo molto vicino all'Occidente, aveva studiato in Canada, era stato negli Stati Uniti, e poi sotto la presidenza Yeltsin gli fu affidata la presidenza della commissione per la riabilitazione delle vittime delle repressioni staliniane. Quindi era l'uomo del presidente della Federazione Russa che si occupava della riabilitazione delle vittime staliniane. Ecco, lui in più occasioni mi disse che andava al KGB a chiedere i documenti e non glieli davano. No, questi oggi non è possibile, no, questi non troviamo questa busta. Per cui anche il presidente della Federazione Russa non era in grado di sapere quello che c'era in questi documenti. La cosa è dimostrata dalla nota vicenda di Katyn. Come ricordate, era quella località in Polonia, ma all'epoca era se non sbaglio Ucraina occidentale, dove l'NKVD, i servizi segreti di Stalin, seppellirono credo 4.000 su 8.000 o 9.000 ufficiali, diplomatici, la classe dirigente polacca sterminata e nascosta in queste tombe senza nome. I documenti su Katyn, il fatto che il riconoscimento che Katyn era un crimine sovietico e non tedesco, perché i sovietici avevano continuato a sostenere che erano stati i tedeschi a uccidere i polacchi, fu fatto da Gorbaciov, il quale, credo parliamo del 1986-87, disse sì, è vero, so che Katyn è roba nostra, ma non ci sono i documenti, non c'è la busta con l'ordine, con tutto quello che è successo. Il che non era vero, ma non era vero e non perché non fu Gorbaciov che mentì, semplicemente non glielo dissero, non gli diedero nulla. Fu poi Yeltsin, proprio in quegli anni, subito a cavallo del 91, che trovò la busta, si fece consegnare l'incartamento ufficiale con l'ordine firmato da Stalin e controfirmato da Beria e da tutti i suoi, e lo consegnò finalmente ai polacchi. Quindi, per dire che dagli archivi russi ho l'impressione che, visto che vista l'aria che tira, non uscirà sicuramente più nulla di rilevante, a meno che non esca qualche cosa che l'attuale dirigenza ritenga utile far uscire, ma altro. Aspettiamo altri sconvolgimenti per avere qualcosa dagli archivi russi. Sperando che non siano troppo gravi questi sconvolgimenti. possiamo, Fabrizio, terminare qui. Grazie al pubblico, grazie di essere venuti, grazie della vostra attenzione. Qui c'è il libro, lì anche c'è il libro, chi lo vuole comprare e fare firmare lo può fare qui dall'autore. Grazie a tutti.